Pane, burro e rock and roll, 8 e un minuto spaccato. Seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Resistete che è venerdì. La tua colazione roll. Puntata 136. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Oh yeah, vi svegliamo noi anche quest'oggi. Al grido di Let the Sunshine. Ci sta in una giornata così, no? Questo è un ottimo risveglio, amici. La colazione di Rock FM suona più o meno così. Che il sole splenda per Davide, che ha un'idea geniale per spargere il verbo di Rock FM: restituire la macchina a noleggio con Rock FM su tutti i canali della radio. È una bella cosa, no? Sì. Ieri un amico da Rotterdam aveva il problema, dice: io devo lasciare la casa, torno in Italia, ma devo fare uno scherzo alla vicina. Lord Nazgul ha avuto un'ottima idea. Dopo 24 ore, sappiate che le archiviamo tutte e settimana prossima, prima che il nostro amico Mattia parta da Rotterdam, gli gireremo tutte le segnalazioni per che scherzo fare alla vicina. Questo è abbastanza violento, un po' violentino, sì. Led Sunshine, Wilma, tanti auguri, buon compleanno! Led Sunshine al gruppo d'ascolto di quelli che si svegliano un'ora prima per ascoltarci nel letto. Deve essere un incubo sentirci nel letto. Ciao Viola, patente 191, siamo in squadra con te. Ciao Vispa. Ciao Eva, che si complimenta per le Zeppelin col kazoo. Ciao Andre, ciao Bonci. Matteo, 13 anni, Firenze. Sei un rocker. Che bello, 13 anni, mi sa che sei il più piccolino all'ascolto. Benvenuto. È il compleanno anche di Marco da Como, che grida: ridateci la Bellucci. Si mette anche lui con noi. È venerdì, è l'ultimo giorno per ascoltare Abato Antuono. Guarda, guarda, non ne posso più. Tutte le volte che c'è sciopero dei mezzi mi tocca fare la marcia lunga. Non ne posso più, basta, basta. Ma tu sei proprio un mozzarella. Ma che un mozzarella, è che ci ho avuto un enorme strappo alle poppacce, capito? Che poi stranamente ha coinvolto tutti i tendini dentro la coscia, ha rampato tutto fino ad andare a coinvolgere anche il gluteo superiore. Allora, volevo amputare la campa. Allora io me ne vado, perché ho un appuntamento con un amico. Ma dove vai? Chi è questo? Chi è? È un amico greco che ho conosciuto al supermercato. Si chiama Anastasio. Ah, Pietruzzi Anastasi, centravanti dell'Ascoli, ex. Conosco, bene, bravo, giochetta di maledetto, bravo. Everybody's looking for some. spesso capita, caro DJ Ariele, cosa? Di chiacchierare del più e del meno, sì, trascurando il per e il diviso, sì, risata obbligatoria, e, chiacchierando appunto di argomenti, sì, in qua e in là, ci in arrivi, su la prego, e in giù, non si accorge di usare termini rocchettari. Ai, ai, ai, ai, ai, le parole ribelli. Sì, infatti era lì che volevo arrivare. Ha un termine per il nostro vocabolario rock anche di stamane? Ma sì, ma sì, ma sì, ma sì. Non vedo veramente l'ora di scoprirlo. La parola ribelle, il termine rock, l'idioma da trincea di oggi è bullo. Beh, è andata decisamente bene per quest'oggi. Siamo anche sul pezzo, perché bullo, i, sì, giornalisti italiani si stanno occupando parecchio del cosiddetto bullismo. Bullismo, per altri versi detto anche nonnismo. Sì. Nonnismo riguarda soprattutto la sfera militare, gli anziani dell'arma che fanno brutti scherzi di servizio. Sì, gli anziani, i soldati che hanno un'anzianità di servizio fanno scherzi alle burbe, alle spine. Agli ultimi nuovi arrivati. Mentre per il bullismo potrebbero essere più adolescenziali, sì, i ragazzi di scuola più grandi che fanno scherzi ai più giovani. Sì, o addirittura nella stessa classe, dunque coetanei. Beh, allora mi scusi. Persone della stessa età, sì, che si fanno scherzi. Sapevamo già che cosa voleva dire la, sì, parola bullo, sì, quindi. Ma noi di Pane, Burro e Rock and Roll, sì, siamo andati ad approfondire il termine bullo, oh, e abbiamo scoperto, sì, che deriva dal tedesco bulle, ah, che significa amico intimo. Beh, e qui casca veramente l'asino, come, sì, si casca dalle nuvole, perché il bullo sembrerebbe essere il contrario dell'amico intimo, quindi ha una stranissima etimologia. Forse l'amico intimo era in origine un po' spavaldo, sì, e un po' eccessivo nell'esibizionismo ed è diventato un bullo. Questa è un'iperbole sua. Sì, forse non ti puoi fidare neanche dell'amico più intimo, perché sai che si cela un bullo sotto quella scorza di confidenziale amicizia, e comunque insomma guardarsi anche degli amici, perché un bullo si nasconde ovunque. Avrei tanto voluto saperlo e finalmente lo so, grazie. Prego, così a prima vista, ad occhio e croce, lei mi sembra un po' bullo, sa? Lo sono, maestro, lo sono. Ah, piacere. East Coast. direi che capita proprio a fagiolo questa California Girl dei Beach Boys. I più fedeli di Pane, Burro e Rock and Roll sanno che nella battaglia degli ascolti qua si gioca sporco. A volte nel corso della settimana la buttiamo sul cacciareccio, sul softcore, sugli uomini e le donne nude. Abbiamo due redazionisti che ci aiutano, l'amica Rosy per quanto riguarda i maschietti tutti nudi, ma soprattutto il nostro camionista di riferimento, Yuri, dalla Ravenna che conta per le donne nude. Ciao Yuri! Buongiorno a tutti, ciao Ariel! Oggi tra l'altro dici che non riesci a sentirci perché sei in Veneto. Esatto, sono in Veneto, sono a 30 km da Venezia. Ma in andata o in ritorno? In andata, in andata. Ho perso Chuck Bird alle 6.40. E dopo sono dovuto andare sulla concorrenza, mi dispiace. Allora, una caccarella mai vista. Esatto, per farvi vedere le donne nude alla radio, abbiamo pensato che un camionista cadeva a fagiolo, cioè meglio di voi chi può farlo. Tra l'altro Yuri, ricordo che non va a descrivervi i calendari, quelli che trovate nelle edicole, così, quelli a disposizione di tutti, ma quelli che ha solo lui e la sua casta di camionisti, quelli regalati dalle officine, dico bene? Esatto. Dici bene. Ma quanti ne hai accatastati nel retro del tuo camion? No, niente, nel retro non si tengono, distraggono dopo. E dove li nascondi? Sono nelle officine, se no negli armadietti, negli spogliatoi, cioè tutto qua, le pareti. Da quando è iniziata la rubrica di Pane, Burro e Rock and Roll li stai raccattando tutti, insomma, perché prendi il lavoro seriamente. Sto raschiando proprio dappertutto, sto cercando dappertutto. Allora, avviso i bambini all'ascolto che inizia al momento a luci rosse, caro Yuri, facci vedere le donne nude. Chi hai scelto quest'oggi? Quest'oggi ho scelto novembre-dicembre, una pagina che raccoglie tutti e due i mesi, diciamo. Ah, hai capito? E praticamente c'è anche la foto che sono due ragazze, per la prima volta ne ho trovate due insieme. Andiamo sul soft lesbo allora. Sì, molto soft, però diciamo che praticamente abbiamo come classico una ragazza mora e una ragazza bionda. Ah, beh. Il classico di classico. Classico, le veline, sì. Sì, beh, vabbè. Sì. Vediamo un bel pittorio. Esatto. Praticamente niente, abbiamo la ragazza mora, sì, che è stesa pancia all'aria, sì, con la mano destra che si tiene sopra la testa, diciamo, il braccio destro sopra la testa. Ho capito, sì. Esatto. Una posizione un po' plana. Ma ambientazione, esatto. Ambientazione, Yuri, dove sono? Sono su un letto. Ma un letto come? Si vede proprio il letto bianco, lenzuola bianche, due cuscini bianchi, non si vede nient'altro. Non è un letto dell'IKEA. No, non penso. Pizzo bianco, pizzo bianco. Lei è stesa, si tiene la mano col capo con la mano. E la ragazza bionda l'abbraccia stesa su un fianco. Sì. Baciandola sul collo. E con la coscia coprendo leggermente il pube. Però si vede qualcosa. Si vede qualcosa, per fortuna. Iniziamo, sdoganiamo anche quello, via. Si vede qualcosa, ha un tatuaggio tribale proprio lì. Lì sopra. Tribale come? Tribale come? Il grigoro. È difficile da descrivere. Sì, un classico tribalino, dai, diciamo. Yuri, nero. Ho una domanda. Mi è venuta una domanda. Non so come mai non mi è mai venuta fino adesso. Ma tu adesso stai guidando e guardi la foto? No, ma scherzerai. Okay. Sei fermo. Fermo. No, ti immaginavo però guidare con il telefono da una parte e l'immagine dall'altra. Sì, con la fila davanti. Esatto. Va bene, quindi rapite sono le ragazze. Un bacio. Sì, finto lei. Un bacio. Carine, insomma. Sul collo è dolce, diciamo. Dolce, molto carino. Sì. Ricordo che Yuri è abilissimo a scoprire se il cosiddetto, tra virgolette, davanzale è vero o è finto. È vero e piccolo, seconda. Tutte e due? Sì, seconda, terza, ma scarsa. Guarda che si sente che ne sai, perché vai a colpo sicuro. Seconda, track. La prossima volta ne trovo una con quelle finte, dai. Per farci piacere e basta. Sì, dai, troviamo. Grazie, certo, io. Ce ne sono anche di quelle. Ho sempre cercato di trovarle quelle naturali. Guarda, dai. Sono veramente in imbarazzo, sia con te che con tutti gli altri radioascoltatori che ci chiamano sempre. Prima o poi vincerete anche voi con noi. Non so come ringraziare, prima o poi lo faremo. Oh, è un piacere. Yuri, ci sentiamo settimana prossima. Preparaci. Quando quella vuoi, sono quelle finte. Ciao, dai, buon viaggio. Ciao. Midwestern boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. He was too far. Led him along that golden beach. They watched the waves tumble over the sand. They drove for miles and miles on those twisting, turning roads. Higher and higher and higher they climbed. Hollywood Nights, Bob Seger and the Silver Ballad Band. 8 e 23 minuti primi, diretta 136 di Pane, Burro e Rock and Roll con l'Ariele, Frick, Spadino e tutti voi. Cediamo la linea velocemente a Rogna e Frigo, i nostri opinionisti, cavie da esperimento. In tanti si sono ci hanno ringraziato per Sweet Dream di Marilyn Manson. Vediamo se vi piace poi anche il brano successivo. Qualcuno commentava ironicamente quando quest'oggi è andata in diretta Don't Cry dei Guns N' Roses che, vista la giornata, forse era meglio November Rain. Ecco, vediamo. Il brano dopo Rogna e Frigo potrebbe andarvi bene. Restate lì, sentiamo che raccontano i nostri topi. Ehi frigo, ho fatto una scoperta sensazionale. Che mai sarà, Rogna? Dimmi. Hanno inventato una nuova specie di topi. Sono fatti in laboratorio, sono dei robot tipo Robocop. Sono i toponimi. Ma che cazzo dici, Rogna? I toponimi sono i nomi delle vie di una città e l'insieme di questi nomi forma la toponomastica. Ah, toponomastica, tanti auguri, frigo. Non sapevo fosse il tuo onomastico. A te ti fa male tutto quel Prozac. Da una Milano, sotto la pioggia, eccoli che arrivano. I Cult. Qualche fantasia, Spadino, eh? Bravo. Complimenti, un applauso. Questa è Rain. 3, 4. Caro Roberto Fricantoni. Presente, dica. Lei sa che a volte i rocker sono delle teste calde. Lo so benissimo, so che anche la convivenza in gruppo è difficile. Sì. Sicuramente lo è stato per il gruppo e per il chitarrista del quale andremo a parlare di quest'oggi all'interno del test attitudinale. Sveliamo subito le carte. Dave Mustaine, primo chitarrista dei Metallica, non ebbe mai un grandissimo rapporto d'amore con la la band sopracitata. Spesso e volentieri negli anni ci furono momenti di tensione, anche qualche annetto fa le ultime bizze tra Dave Mustaine, che poi suona tuttora con i Megadeth, e i citati Metallica. Ma quale di queste tre ipotesi, quale di queste tre zuffe tra Mustaine e i Metallica è vera? Una soltanto. Ipotesi A: Mustaine si recò a casa di Ulrich, suo collega e batterista dei Metallica, perché scoprì che non era stato messo il suo nome sulla canzone Master of Puppets e gli spaccò il naso con una bottigliata. Complimenti, è forse l'ipotesi esatta oppure? Risposta B: Mustaine si recò a casa di Ron McGovney, primo bassista dei Metallica, e sciolse i suoi cani. Uno di loro salì sulla macchina di McGovney, lasciandoci degli escrementi. Hetfield, che si trovava a casa sua, disse a Mustaine di togliere il suo cane, ma, davanti al suo rifiuto, prese l'animale a calci, generando così una violenta rissa tra i due. Oi là là, è questa la vera oppure? Situazioni pesanti, comunque. Sì. Ipotesi C: Hetfield chiese una birra e Mustaine gli portò una bottiglia contenente urina al posto della birra, dobbiamo dirlo. Hetfield se ne accorse e quindi scattò immediatamente una violenta rissa tra i due. Qual è la soluzione esatta, l'ipotesi giusta, A, B o C? Siamo in piena atmosfera heavy metal. Quale sarà la risposta giusta? La 1, la 2 o la 3? Come al solito, la soluzione ve la diamo dopo. La risposta a tra poco.